Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. In questa puntata, il maestro italiano dell'avventura, Marco Buticchi, scrittore da un milione di copie, racconta il suo ultimo romanzo fra Michelangelo e Brigate Rosse. Classifica, Serra contro volo, Gli sdraiati supera il libro dei record. Quando Maigret viene letto da Battiston. Oggi siamo in compagnia di Marco Buticchi, ora in libreria con La Stella di Pietra, pubblicato da Longanesi. Marco Buticchi è un nome famosissimo in Italia, ma anche nel mondo. Diciamo che è un marchio del Made in Italy, insomma, che ci fa onore anche nel resto del mondo. Buticchi scrive dei romanzi che sono un mix fra passato e presente, fra vero, verosimile e finzione. È difficilissimo spiegare un po' la trama di questo romanzo perché è veramente complicata, insomma, e non vorremmo far perdere il gusto della lettura. Però in due parole diciamo che si seguono in contemporanea due piani temporali, il 500 con Michelangelo protagonista e invece gli anni 70 con il terrorismo e le Brigate Rosse. Come mai hai deciso di mettere insieme queste due cose che poi a un certo punto del romanzo verso la fine si intrecceranno, ma non diciamo come? La ringrazio innanzitutto per questo marchio del Made in Italy che mi fa veramente onore, sono orgoglioso del fatto di essere italiano e scrivere romanzi italiani d'avventura come i nostri grandi, come quei grandi che mi hanno preceduto ormai nei secoli. I due piani temporali nascono da due folgorazioni. L'una la ho mentre sto osservando il Laoconto all'interno dei Musei Vaticani e questa scultura meravigliosa di questo sacerdote troiano cerca di strappare i figlioli alla terribile morte magnati da due serpenti marini. E io mi innamoro di lei e dico, ma santo cielo, ma quella ha un'espressione nella quale vedi. E poi mi viene in mente, dico, ma come, non ci hanno insegnato che le statue classiche non hanno espressione? Pensateci, i bronzi di Riace, bellissimi, ma privi di espressione. E allora incomincio a dire, ma forse quella è una statua che non appartiene a quel periodo. Forse potrebbe essere, e dico una bestemmia, una statua rinascimentale. E da lì incomincio a studiare questa cosa e ne esco fuori folgorato. E l'altra invece, non bisogna mai dar retta alle telefonate degli editori. Per questa volta io l'ho fatto. Un giorno mi chiama il mio editore e mi dice, Marco, hai visto che è morto Silvano Girotto? E io non pensavo chi fosse, dico, mi dispiace, pensavo fosse un nostro collega. E poi mi dice, sì, ma frate Mitra. Beh, andando a vedere poi la storia della vita di questo frate Mitra, il primo infiltrato nelle Brigate Rosse, quello che fa prendere Curcio e Franceschini, mi sono accorto che c'è un angolo oscuro della nostra storia recente, la storia delle Brigate Rosse e tutti gli atti terroristici che hanno marchiato indelebilmente gli anni Ottanta. In questo romanzo tornano i due personaggi, insomma, possiamo dire seriali di tutti i romanzi di Buticchi, Sara Terracini, l'archeologa, insomma, la specialista di storia antica, e Oswald Breil, che è un capo del Mossad, è stato anche primo ministro in Israele. Ma vediamo, come dire, una sorta di prequel, cioè vediamo la fase in cui loro due si sono conosciuti appunto negli anni 70. Il motivo per cui si conoscono è che Sara rimane, come dire, coinvolta in un caso, in un omicidio delle Brigate Rosse. Lei si sta per laureare all'università, un suo amico le scatta delle foto nel momento in cui avviene un omicidio eccellente. Veda, anch'io in quel periodo sono rimasto diverse volte coinvolto in attentati delle Brigate Rosse, pur essendo un normalissimo cittadino. Ricordo che una volta eravamo ragazzi a Roma e facevamo le poste, si chiamavano, alla fidanzatina di un mio amico, e facevamo il giro di questo isolato con la macchina, e quando la ragazza sarebbe apparsa lui si doveva buttare giù dalla macchina e dire sono qui per caso. Un giro o due giri, e al terzo giro avevano colpito l'auto della scorta di Galloni, che all'epoca era segretario della Democrazia Cristiana. E ci siamo trovati noi ragazzi giovani con questi ragazzi altrettanto giovani che crondavano sangue, crivellati di colpi, vivi per fortuna ma gravemente feriti. E invece un'altra volta mi trovai arrivai sulla scena di un attentato dove avevano gambizzato a Firenze un giudice, e io mi tolsi la cintura istintivamente e gli allacciai la cintura alla gamba per non fargli perdere sangue arterioso. Ecco, pensare che dietro a questi episodi. Veda, quando finisce il dramma, quando finisce la guerra, noi abbiamo tutt'altro a che fare che non pensare dove vanno a finire questi maledetti che hanno rovinato l'Europa. Dalla mia Genova partono 50.000 criminali di guerra, nazisti, fascisti e Ustascia, e vanno a finire probabilmente in Sud America. Ecco, la gente non pensava a questo, non diceva dove vanno a finire questi demoni, diceva: moglie mia, stanotte non bombardano, beviamoci un bel bicchiere di vino. Ecco, la stessa cosa è successa con noi quando è finito il terrorismo. Non abbiamo più paura di andare per strada, non indaghiamo oltre. Ecco, oggi sarebbe il caso che anche con un semplice romanzo d'avventura qualcuno incominciasse ad aprire gli occhi in quest'Italia dei misteri. Tornando proprio alla trama, quindi Sara si fa fotografare da un suo amico nel cortile dell'università e le Brigate Rosse sembrano essere molto interessate a queste foto, a questi scatti. Da qui, insomma, nasce poi tutta la trama gialla e misteriosa di questo romanzo. Ci può accennare qualcosa? Beh, più che altro, più che parlare di una trama, parlerei di una storia d'Italia misteriosa. Misteriosa sia nel XVI secolo, con un Michelangelo meraviglioso. Lei pensi soltanto, 1492, muore Lorenzo de' Medici, viene scoperta l'America, Michelangelo ha 17 anni, Leonardo ha una quarantina, il poliziano pure, Pico della Mirandola ne ha 31, Lutero ne ha 9, quindi da un coacervo di questi generi doveva esplodere qualcosa, ed esplode di fatto il Rinascimento italiano. E invece negli anni di piombo, da tutti i segreti che ci hanno in qualche modo occultati, da tutte le fuorvianze che ci hanno regalato in quegli anni, e sicuramente noi dobbiamo avere oggi un occhio critico per guardarli meglio. Quando ho letto questo libro mi sono venuti un sacco di dubbi, un sacco di curiosità, perché appunto lei gioca con il verosimile e la finzione, e quindi chiaramente sono andata su Google a cercarmi la storia della Oconte, appunto di questa statua che è nei Musei Vaticani di Roma, e poi alcune cose del terrorismo. Questo è sicuramente un aspetto positivo, perché la gente impara anche qualcosa che non conosceva, ma c'è anche il rischio che si confonda anche nel lettore verità e finzione. Le potrei rispondere, e lo dico come se fossi al bar, come diceva un ragazzo che si farà strada nella letteratura, seguitelo, si chiama Manzoni Alessandro, e questo signore diceva che lo scrittore di romanzo storico deve riuscire a infinocchiare talmente bene il lettore che costui non capisca più ove sia il confine tra vero e verosimile. È vero, è anche vero che tra me e un lettore si crea quello che tanti chiamano il patto col lettore, quindi c'è una sorta di... Attenzione, non ti sto turlupinando, io alla fine dico sì, guarda, io scrivo comunque romanzi d'avventura con un fondo storico, tu puoi pensare che fino a questo punto, e sei arrivato alla fine, io ti ho preso in giro, però da questo punto in poi tutto quello che ti racconto è successo veramente, e allego una ventina di pagine d'appendice con la vera storia desunta da atti ufficiali della Repubblica Italiana. Insomma, anche un romanziere può aiutare a far luce sui misteri che a volte non si riescono, come dire, a provare con le prove vere e proprie, ma insomma dei ragionamenti, delle strategie di pensiero possono aiutare. Guardi, ogni sforzo dedito a tirar fuori il paese più bello del mondo dalla melma e essere convinti che il fatto di essere italiani è premiante rispetto a chiunque altro può aiutarci a tirarci fuori da uno stato di torpore nel quale siamo ahimè caduti. Marco Buticchi è l'unico autore italiano nella collana, diciamo, dell'avventura dei maestri dell'avventura della Longanesi, insieme a Wilbur Smith, Tom Clancy. Qualcuno la definisce il Wilbur Smith italiano. Questa cosa le fa piacere? O è Wilbur Smith che dovrebbe essere definito il Marco Buticchi sudafricano? No, per l'amor di Dio, i paragoni sono sempre lusinghieri. È anche vero che adesso si incomincia a dire che Marco Buticchi scriva come Marco Buticchi. Quello è il più grosso piacere che io possa ricevere da voi della stampa. Lei ha avuto una vita piuttosto avventurosa, nel senso che ha fatto il trader petrolifero, ha girato il mondo e poi ha deciso di fare lo scrittore. Tra l'altro è proprietario di un hotel a Leri, ci fa il bagnino durante l'estate perché è una cosa che le piace. Quanto la sua vita appunto in giro per il mondo le ha dato spunti? Perché in realtà ho letto un'intervista dove diceva che le sue idee le vengono quando fa il bagnino, quindi quando è fermo in spiaggia. Fa sempre figo dire, quando mi intervistano mi dicono: ma lei che ha girato il mondo sicuramente può parlare d'avventura. Sì, ma non è vero, io se vuole glielo dico, ma quando uno gira il mondo può percepire profumi, può vedere gli occhi della gente, capire se è arrabbiata, può rendersi conto infarinandosi di come stanno da quelle bande. ma per dire che dopo la terza strada di New York c'è una determinata drogheria, ti devi sedere a un tavolino e studiare. E questo bisogna impararlo da quel grande maestro che non ha mai mosso il sedere dal suo studio, Emilio Salgari, che noi siamo riusciti, perché ci vergognavamo di chi parlava d'avventura, a chiamare Emile Salgari alla francese. A questo punto le sue idee, le trame dei romanzi, come le nascono? Da folgorazione, detto da particolari irrilevanti, un oggetto magari secondario nel quale ti accorgi che risiede tutta la forza per costruire la trama di un romanzo. E un romanzo, badi bene, non si scrive con l'ispirazione, certo quella aiuta per avere l'impulso, ma poi bisogna sedersi a tavolino e studiarlo, perché un romanzo è un lavoro come tutti quanti gli altri. Anche perché i romanzi storici hanno bisogno anche di documentazione, insomma, dicevamo, vero, verosimile, finzione, lei studia molto. Io in questo ho avuto un grande maestro che si chiama Mairo Spagnoli, il mio compianto editore, scomparve nel 1999. Alla fine di ogni romanzo attaccavamo delle trattative infinite, perché lui mi diceva che alcune cose non erano verosimili. Io estenuato gli dissi un giorno: Spagnoli, ma io scrivo romanzi d'avventura, come dire, il lettore qualche licenza poetica me la perdonerà. E lui mi disse: sì, lei scrive romanzi d'avventura ma con un fondo storico, e nella storia bisogna essere rigorosi. Grazie a Marco Buticchi, ora in libreria con La Stella di Pietra, pubblicato da Longanesi. Marco Buticchi, con il suo milione di copie venduto fra i vari romanzi che ha scritto, è sicuramente un autore da classifica. E che cosa sta succedendo ora nella classifica italiana di vendita di libri? Beh, la classica battaglia di fine anno per accaparrarsi lettori, visto insomma che dicembre è il mese in assoluto in cui si vendono più libri, ovviamente perché c'è il Natale. Michele Serra, con il suo Gli Sdraiati, pubblicato da Feltrinelli, è riuscito a balzare già la scorsa settimana in testa alla classifica. E ha superato anche il romanzo del momento, sia quello di Fabio Volo, La strada verso casa, Mondadori, e solo a poche settimane dalla sua uscita. Insomma, una battaglia di fine anno piuttosto combattuta, visto che ci sono da un lato Serra, insomma Volo e anche Sepulveda che si contendono la vetta. Tornando al libro di Serra, è un libro ironico, classico stile di Michele Serra, in cui si parla degli adolescenti, gli sdraiati appunto, poco motivati e completamente diversi dai loro padri. Dunque, Serra ha superato Volo. E come l'ha presa il diretto interessato? Sentiamo Michele Serra, intervistato da Dario Ceccarelli. Ne approfitto tra l'altro per dire che insomma, Fabio Volo viene ingiustamente considerato una specie di paradigma del non libro, ma non è vero, insomma è uno scrittore molto popolare, però evidentemente racconta storie con un capo, una coda, e ha un pubblico molto vasto, quindi voglio dire, battere Fabio Volo è un onore grandissimo. E dato a Volo quel che è di Volo, il tuo libro invece? Il mio libro è un libro piccolo, fragile e duro, a volte le cose dure sono anche fragili. È un libro di 110 pagine, una specie di romanzo in frantumi, piccolo romanzo in frantumi sul rapporto tra un padre e un figlio. I figli tu li chiami gli sdraiati, perché? Beh, diciamo, l'ho fatto il cronista da ragazzo, e quindi so che quello che conta è l'osservazione della realtà, e siccome li vedo prevalentemente sdraiati sul divano, questo discorso riguarda il campionario abbastanza vasto di ragazzi, insomma, con cui ho avuto e ho a che fare, due figli miei, due figli di mia moglie, gli amici, i fidanzati, le fidanzate. Diciamo che c'è un piacevole indugio nella posizione orizzontale, e da quello sono, diciamo, polemicamente partito per quel titolo. Poi è diventato, mano a mano che scrivevo, forse più un libro contro i padri che contro i figli. Michele, cominci in un modo fulminante, una domanda che per noi genitori è un tormentone infinito: ma dove cazzo sei? Beh, il libro vorrei proprio dire che è nato da quel titolo e da quella frase. Cioè, io già qualche anno fa, quando ho pensato che potevo e forse dovevo scriverlo, ho pensato: si intitolerà Gli Sdraiati, e la prima riga del libro sarà "Ma dove cazzo sei?". È un inizio, mi rendo conto, brutale, ma credo anche molto molto riconoscibile per legioni di genitori che evidentemente ci si sono ritrovati poi leggendo il libro. Ma quando è che i genitori si sono persi? E chi lo sa, il bello della letteratura è che si possono fare molte domande, raccontare molte storie, e non si è tenuti a dare alcuna risposta, anche perché non avrei saputo darla, io da dare soltanto dei dubbi. Certo, il libro è attraversato da questa ansia, come dire, della mancata eredità, cioè di una mancata trasmissione di valori o addirittura di modi di fare, e quindi il dubbio che dilania questo padre e lo rende spesso schizofrenico, nel senso che insomma di umore ambivalente tra l'arreso e il nevrastenico, e il dubbio che lo attraversa ovviamente di non essere stato autorevole, e forse dubbio ancora più grave per una persona diciamo di sinistra che ha fatto il 68, non solo di non essere stato autorevole ma di non essere stato autoritario, quindi di non avere imposto delle regole. È un dubbio che mi porto dietro per tutto il libro, cioè questo padre non lo scioglie. Certo è cosciente del fatto che indietro non si torna, cioè è inutile avere nostalgia del padre con la P maiuscola di una società autoritaria ordinata che non è più nelle cose, che non è più nelle possibilità. E l'altra cosa consolatoria, spero che non sia un alibi, è Freud quando diceva il genitore migliore è quello che è cosciente di essere imperfetto. Ecco, da quel punto di vista io sono migliorissimo perché sono imperfettissimo. È arrivato il momento di anticipare che cosa ci sarà domani sulla prima pagina del Domenicale, l'inserto culturale del Sole 24 Ore. Una prima pagina dedicata a una centenaria d'eccezione. Armando Massarenti, tu che curi appunto il Domenicale, chi è questa centenaria d'eccezione? È davvero un personaggio straordinario, è Emma Castelnuovo, che è una grande matematica, ma soprattutto una grande pedagogista della matematica, che ha rivoluzionato il modo di insegnare cose che apparentemente sono molto difficili attraverso la storia della matematica e attraverso la concettualizzazione. Con una sua idea di una matematica intuitiva è riuscita a insegnare a generazioni e generazioni di bambini, tra cui l'autore dell'articolo, che è Franco Lorenzoni, che a sua volta sta portando avanti un esercizio didattico a tutto campo, non solo riguardante la matematica, e che appunto si ispira a questa grandissima pedagogista. È una figura veramente incredibile. Compie 100 anni il 12 di dicembre e gli facciamo tantissimi auguri, perché ha inventato un metodo che consiste semplicemente nel mettere nelle mani dei bambini le conoscenze, la possibilità di conoscere direttamente attraverso degli strumenti molto semplici che sono degli spaghi, dei pezzi di spago, degli elastici, degli stecchini, e attraverso proprio il modo in cui si possono far roteare con le mani delle figure su un piano o nello spazio, che questi bambini apprendono direttamente e spesso sono in grado di fare delle esposizioni di concetti anche molto complicati che persino stupiscono persino i loro stessi insegnanti. Noi la ricordiamo e le facciamo i nostri migliori auguri, perché è da qui che secondo noi inizia una possibile riforma col suo metodo, che è un metodo rivoluzionario, una possibile riforma della scuola. Insomma, tanti auguri per i 100 anni a Emma Castelnuovo. Grazie Armando Massarenti, ci uniamo naturalmente anche noi per gli auguri a Emma Castelnuovo, insomma la dimostrazione che anche le cose più complesse come la matematica possono essere apprese se vengono insegnate in modo corretto. E veniamo a qualche segnalazione. È uscito in libreria da qualche giorno l'audiolibro firmato Emmons su Il porto delle nebbie, che inaugura la collezione dedicata a Maigret, il commissario creato dalla penna di Georges Simenon. Lo scrittore belga dedicò ben 75 romanzi al suo personaggio seriale, con il quale aveva un rapporto di amore e odio. Simenon, insomma, era uno scrittore piuttosto prolifico, scriveva parecchio. Oltre a questi romanzi definiti Maigret, c'erano i cosiddetti non Maigret. Uno per esempio che mi è piaciuto tantissimo era La camera azzurra. Ma tornando al Porto delle nebbie, in questo romanzo il commissario Maigret accompagna un uomo che ha perso la memoria in un paesino della Normandia che naturalmente è avvolto nella nebbia. Qui quest'uomo muore e parte l'indagine. E allora sentiamo un estratto di questo audiolibro letto dall'attore Giuseppe Battiston. Quando avevano lasciato Parigi verso le 3 del pomeriggio, la folla brulicava ancora sotto un pallido sole autunnale. Poi, verso Mantes, si erano accese le lampade dello scompartimento. A Evreux, fuori, era tutto buio. E adesso, attraverso i finestrini lungo i quali scivolavano gocce di vapore, si vedeva una fitta nebbia che circondava di un alone lattiginoso le luci della strada ferrata. Sprofondato in un angolo, con la nuca appoggiata al bordo del sedile e gli occhi socchiusi, Maigret osservava meccanicamente i due personaggi che aveva di fronte, così diversi l'uno dall'altro. Il capitano Joris dormiva, con la parrucca di traverso sull'ormai celebre cranio e il vestito spiegazzato. Julie, con le mani sulla borsetta di finto coccodrillo, fissava un punto indefinito dello spazio, cercando di mantenere, nonostante la stanchezza, un atteggiamento posato. E veniamo alla parte delle segnalazioni. Restando sempre in ambito di noir, visto che prima parlavamo di Simenon, vi segnaliamo che a grande richiesta è stata allungata la collana di noir inediti legati alle città che sono proposti dal Sole 24 Ore ogni venerdì. Ieri è uscito L'uomo murato di Emanuele Crocetti, ambientato a Foggia. L'autore è un medico che si è inventato il personaggio del commissario Peruzzi. Quindi insomma ci saranno altri 10 romanzi noir inediti ogni venerdì in edicola con il Sole 24 Ore, ma ovviamente restano poi disponibili per tutta la settimana. Un appuntamento molto importante il prossimo fine settimana, da giovedì 5 a domenica 8 dicembre a Roma, Più Libri Più Liberi, che è la fiera nazionale della piccola e media editoria che si svolge al Palazzo dei Congressi, appunto a Roma. Ci sono come sempre tantissimi espositori, quindi si possono trovare libri, curiosità delle chicche, delle piccole case editrici che a volte non riescono ad arrivare in tutte le librerie d'Italia, e ci saranno incontri con gli scrittori, ve ne cito alcuni. Partiamo dagli stranieri. La scrittrice irlandese Edna O'Brien, lei era diventata famosa negli anni 60 con Ragazze di campagna, un romanzo che aveva scandalizzato all'epoca. Poi ci sarà per esempio il drammaturgo belga Erik Emanuel Schmidt. E poi ancora scrittori come Andrea Camilleri, Massimo Carlotto, Henry De Luca, Marco Malvaldi, anche esponenti del cinema come Margherita Bui, Carolina Crescentini, Pierfrancesco Favino. Oltre agli incontri ci saranno anche dei workshop, alcuni devo dire molto curiosi, molto interessanti. Per esempio ce n'è uno dove si impara a fare un graphic novel e un altro dal titolo Storytelling & Co. Come si progetta un universo narrativo. L'ultima segnalazione riguarda Venezia, perché all'Ateneo Veneto giovedì 5 e venerdì 6 dicembre ci sarà un grande convegno internazionale sul fantasy. Insomma, tutti gli appassionati del fantasy, che però comprendono l'inglese perché sarà in lingua questo convegno, possono sicuramente godere di questo incontro molto importante, che viene organizzato da Ca' Foscari in collaborazione con l'Ateneo Veneto. Fra gli altri ci sarà Peter Hunt, che è il massimo esperto inglese di letteratura per ragazzi. Insomma, si parlerà moltissimo di fantasy, da Harry Potter al Signore degli Anelli, addirittura le serie televisive, anche Il Trono di Spade e così via. Anche per oggi è tutto, grazie in regia a Fabio Cantadori e Roberto Scaltritti. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Mi trovate su Facebook e anche su Twitter come Ale Teddina. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.